Radio 24 Reportage. La striscia di Gaza, in collaborazione con la Radio Svizzera Italiana. Ci sarà mai un'inchiesta internazionale per scoprire se Israele ha commesso crimini di guerra a Gaza nei 22 giorni dell'operazione Piombo Fuso? Le organizzazioni per i diritti umani chiedono che un'indagine sia promossa dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, almeno dall'Alto Commissariato ONU per i diritti umani. Una delegazione di Amnesty International lo scorso gennaio ha trascorso diversi giorni nella striscia e ha trovato diverse prove di crimini di guerra. Ce ne ha parlato a Gaza il capo delegazione di Amnesty, Donatella Rovera. Noi siamo arrivati quando abbiamo potuto entrare, perché abbiamo chiesto accesso dal primo giorno e il governo israeliano non ha concesso accesso. Le autorità egiziane non erano così responsive e abbiamo avuto accesso un paio di giorni prima del cessato il fuoco. E poi da quando siamo qui facciamo il lavoro come facciamo sempre in altri paesi, che è fare ricerca in casi individuali su diversi tipi di violazione di diritti internazionali, cercando di fare la differenza da quello che possono essere casi isolati, cose che possono essere successe per incidente veramente, o e casi che poi c'è una ripetizione, che sono quindi patterns. Uccisioni illegali, distruzione gratuita di proprietà civili, uso di armi in un modo, anche questo unlawful, illegale, nel senso che armi che non dovrebbero essere usate contro i civili, che si sa che se si usano un certo tipo di armi e di munizione in un certo tipo di situazione, come si usa l'artiglieria in quartieri residenziali, si sa che le probabilità di arrivare al target sono minime rispetto alla possibilità e la probabilità di colpire persone e oggetti che non erano l'obiettivo. Poi c'è l'accesso a servizi di emergenza medici e servizi umanitari, quindi il fatto che questo è stato negato, non in un caso o due casi, però in molti casi e in zone diverse della striscia di Gaza. Quindi queste sono in grosso modo le tre grandi linee della nostra investigazione. Cosa avete scoperto finora? Che violazioni di diritto internazionale sono state commesse a un livello massivo, incluso violazioni che costituiscono crimini di guerra, in tutti i campi che ho menzionato prima. Sono state commesse chiare violazioni di diritto internazionale, in cui ci sono prove chiare, perché stiamo trovando le proiettili di artiglieria dappertutto, non è che sono stati usati per errore, sono stati usati in tutte le zone in Gaza City, nel nord, nel sud. Uno dei casi che meriterebbe un'indagine è quello di Mahmoud Mashrawi, un bambino di 11 anni ucciso da un missile mentre giocava con il suo cuginetto sul tetto della sua casa. Ci racconta quel che è accaduto Ashraf Mashrawi, video operatore e documentarista, fratello del bambino ucciso. It was in the first day of Kerjin, Gaza, Kerjin. And you know, as any family, they prevented their children to go out to play. È successo nel primo giorno dell'incursione di terra israeliana. I miei familiari avevano proibito ai bambini di uscire in strada perché era troppo pericoloso. Così tutti i bambini del palazzo giocavano sulla terrazza sul tetto. La nostra casa è più bassa delle altre intorno e abitiamo in centro, nella zona più tranquilla di Gaza City. Nessun guerrigliero ha mai sparato da lì. A un certo punto gli altri bambini sono scesi a far colazione e sul tetto sono rimasti solo mio cugino e mio fratello a giocare con le biglie. Un vicino di una casa accanto, che ha visto, ha raccontato che un missile israeliano è arrivato e ha colpito in pieno mio cugino di 15 anni, spezzando il suo corpo in due parti. Mio fratello è stato colpito dalle schegge e morto più tardi in ospedale. Mio fratello aveva solo 11 anni, era un ragazzino intelligente e sveglio, era già bravissimo con il computer, appassionato di animazione, era un bambino pieno di pregi. È incredibile che due bambini siano stati colpiti direttamente da un missile. Io durante questa guerra, come cameraman, ho lavorato per televisioni americane e inglesi, fra cui la CNN. Loro hanno voluto raccontare questa storia. Si sono rivolti all'esercito israeliano per chiedere spiegazioni. I militari israeliani hanno voluto sapere il mio indirizzo, hanno verificato e poi hanno detto che non sanno nulla di questo missile. Hanno detto che non è un loro missile. ma io ho in mano i frammenti ed è un missile israeliano e abbiamo testimoni di quel che è accaduto. C'è addirittura sospetto che sia un missile Daim, queste nuove armi di precisione che vengono sperimentate a Gaza. È venuto un esperto di Human Rights Watch, ha voluto vedere i frammenti e ha raccolto campioni della polvere lasciata dal missile. Io gli ho raccontato tutta la storia. È inspiegabile, non so perché siano stati colpiti due bambini. Erano visibili, erano le 10:30 del mattino, era pieno giorno. È stato un crimine di guerra. L'esercito israeliano ha ammesso di aver usato armi al fosforo bianco a Gaza, ma sostiene di averlo fatto in conformità alle leggi internazionali. Solo un battaglione di soldati l'avrebbe impropriamente usato in aree abitate e su questo l'esercito israeliano ha aperto un'indagine interna. Ma secondo Amnesty, il fosforo bianco è stato usato in modo massiccio e ovunque nella striscia. Sentiamo ancora Donatella Rovera. C'è chiaramente la questione del fosforo bianco che le autorità israeliane hanno rifiutato di confermare per parecchio tempo, però poi quando siamo entrati, come anche quando sono entrati i giornalisti, l'evidenza è chiarissima. Abbiamo con noi un esperto militare e quindi insomma adesso comunque le autorità israeliane anche hanno ammesso questo. La loro ammissione tardiva ha fatto che vittime che avrebbero potuto essere curate in modo più efficiente, più presto, hanno invece sofferto una deteriorazione delle loro condizioni, perché i medici qui, questa era la prima volta che il fosforo bianco veniva utilizzato e i medici non avevano idea assolutamente che era questo, quindi trattavano le bruciature come trattavano le bruciature normali e quindi le condizioni dei pazienti non solo non migliorava ma peggiorava. Sono stati casi orribili dove la ferita dei pazienti fumava dopo un giorno perché rimanevano dei particles di white phosphorus e quindi ogni volta che era esposto a ossigeno bruciava. L'uso del fosforo bianco è stato fatto uso in modo illegale ma anche incomprensibile dal punto di vista puramente di tattiche militari. Normalmente il fosforo bianco viene usato in due casi, per illuminare oppure per creare un smoke screen per proteggere i movimenti delle truppe. Qui il fosforo bianco è stato usato in zone dove i soldati israeliani non erano presenti, all'interno e all'intorno del complesso UNRWA qui a Gaza City, né alla scuola di Beit Lahia, né all'ospedale del Quds, in tutti i posti dove noi abbiamo visto che è stato usato all'intorno di case civili, quartieri residenziali, non c'erano soldati sul terreno. E poi questo veniva usato in piena giornata, quindi chiaramente non era necessario illuminare. Quindi è assolutamente incomprensibile il perché sia stato usato il fosforo bianco. L'esercito israeliano dice che un solo battaglione di soldati ha usato in modo improprio il fosforo bianco. Questo, secondo le vostre ricerche, è possibile? No. Noi abbiamo visto uso di fosforo bianco in modo in cui non avrebbe dovuto essere usato dal nord al sud. Non è solo un battaglione. C'è poi la questione dei civili intrappolati in mezzo ai bombardamenti e all'avanzata dei soldati israeliani. Sentite il racconto di Sub Arafat, un agricoltore palestinese di 25 anni che racconta quello che ha dovuto subire la sua famiglia nel quartiere Zaitun di Gaza City, uno dei più colpiti dall'incursione di terra israeliana. Mio padre ha deciso di raccoglierci tutti in una casa in modo che in caso arrivassero i soldati fossimo insieme. Eravamo una settantina fra fratelli, zii e cugini, comprese tantissime donne e bimbi. Quel venerdì i soldati israeliani sono arrivati nel nostro quartiere e hanno colpito la casa di mio cugino. Nel giro di poco eravamo circondati, tutti stesi al pian terreno, non osavamo alzarci neppure per andare in bagno. Il giorno dopo abbiamo deciso che dovevamo lasciare la casa. Mio padre e mio cugino hanno provato a uscire e un soldato li ha visti e gli ha gridato in arabo di tornare dentro. Abbiamo finito il cibo, l'acqua, i bambini piangevano, abbiamo telefonato alla Croce Rossa, al Ministero palestinese, ai nostri vicini, chiedendo aiuto, chiedendo di essere evacuati. Ci hanno detto di rimanere in casa perché se fossimo usciti ci avrebbero ucciso. Il secondo giorno le donne hanno provato a uscire sventolando una bandiera bianca e gridando ai soldati che noi siamo civili, non abbiamo armi, non siamo della resistenza. Vi prego, lasciateci scappare da qui. Hanno prima sparato alle donne, poi alla casa, infine è caduto un missile sul primo piano. In 70 siamo tutti corsi fuori, urlando. Un po' più oltre c'erano altre persone di altre famiglie che cercavano di scappare. Ci siamo ritrovati in 300. Mio padre parla ebraico e si è avvicinato a una casa dove c'erano soldati israeliani delle forze speciali. Prima gli hanno sparato vicino, poi un soldato ha avuto pietà di noi e ci ha fatto segno di allontanarci. Ci siamo incamminati, avevamo un piccolo aereo senza pilota tutto il tempo sopra la nostra testa che ci sorvegliava. Sul ciglio della strada abbiamo visto un membro della famiglia Samuni ammanettato e ferito. Abbiamo cercato di farlo alzare e portarlo con noi, ma i soldati ci hanno ordinato di lasciarlo dov'era. Quando sono tornato a casa pochi giorni fa, ho visto che i soldati ci avevano distrutto i mobili, ci hanno rubato tutto l'oro che avevamo in casa e $15,000 di risparmi.